Ciabatti. Dopo una mattinata al rialzo scivolano in territorio negativo i listini europei. San Raffaele raffica di perquisizioni in 20 sedi italiane dell'ospedale. Le azzurre del volley battono la Germania e staccano il biglietto per le Olimpiadi di Londra 2012. Buongiorno dalla redazione di GR24, buongiorno da Maria Piera Ceci. Dunque, come sentivate dai titoli, da due ore il presidente incaricato Monti al Quirinale con la lista dei ministri, un'attesa davvero importante questa che evidentemente evidenzia delle difficoltà, ma veniamo a collegarci subito con il Quirinale con Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così Piera, da due ore il premier incaricato Mario Monti a colloquio con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri, una procedura anomala. Generalmente il colloquio tra il capo dello Stato e il premier designato dura al massimo un'ora e poi dovrebbe uscire il segretario generale del Quirinale Donato Marra. Intanto i due partiti maggiori continuano ad intervenire sul nuovo esecutivo. Silvio Berlusconi convoca lo Stato Maggiore del PDL a Palazzo Grazioli, la riunione dovrebbe iniziare a momenti e l'ufficio di presidenza è previsto in serata. Anche il PD si riunirà alle 20 come stabilito dal segretario Pierluigi Bersani. Non sarà una parentesi il governo Monti, spiega Massimo D'Alema del Partito Democratico, mentre Fabrizio Cicchitto del PDL precisa Monti non si ricandiderà alle prossime elezioni. Il giuramento dei nuovi ministri ci dovrebbe essere alle 15, poi i capigruppo di Camera e Senato si riuniranno per decidere il calendario della fiducia. Di sicuro la fiducia si terrà domani al Senato, bisogna vedere invece alla Camera se slitterà a venerdì. Subito dopo il primo il Consiglio dei Ministri del nuovo governo, atteso ovviamente per il discorso programmatico che Monti farà alle Camere, ma ricordiamo, la procedura che si sta svolgendo in questi minuti al Quirinale è anomala. Due ore di colloquio con il capo dello Stato Giorgio Napolitano e il premier incaricato Mario Monti. Per il momento qui dal Quirinale è tutto a studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Dunque, procedura anomala, due ore di colloquio fra Monti e il capo dello Stato. In diretta con noi Stefano Folli. Stefano, che significato ha questa lunga attesa? Evidentemente c'erano da precisare ancora varie caselle, da sistemare vari punti. Non è che mi stupisce questa lunghezza, perché questo è un governo che nasce con poca anima politica, evidentemente è un governo di forte presenza di tecnici e è un governo che ha nel Quirinale il suo punto d'appoggio principale, naturalmente, quindi è comprensibile che il Presidente della Repubblica abbia, come dire, dovuto aiutare Monti anche con la sua esperienza politica, gli ha dato dei suggerimenti e lo ha probabilmente aiutato a comporre gli ultimi tasselli del di questo puzzle. Mosaico non facile. Stefano, resta naturalmente con noi perché torneremo a collegarci a commentare la lista dei ministri non appena vedremo Monti comparire sui nostri schermi. Grazie mille intanto per questa prima valutazione. Noi andiamo invece a vedere come stanno reagendo i mercati in diretta con noi Deborah Rosciani. Allora, c'è un po' di nervosismo sul mercato. Questa mattina la giornata era partita all'insegna dell'ottimismo perché Milano, partita col segno meno, aveva recuperato fino a guadagnare 2,5 punti e poi ha virato di nuovo in negativo. Adesso il FTSE MIB è a meno 0,41 e porta con sé anche le altre piazze europee. Francoforte meno 1,31% addirittura, Parigi meno 0,36, Londra meno 0,94%. Ma il termometro dell'incertezza, come sempre, lo spread fra BTP e Bund, il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e questo tedesco e quello tedesco, ieri aveva toccato i 530 punti base. Questa mattina il mercato si era rasserenato ed era ritornato sotto la soglia dei 500 punti. Nel corso dell'ultima ora invece abbiamo di nuovo risalito la china e adesso siamo a 532 punti base. Pertanto il rendimento del titolo decennale si sta riportando di nuovo intorno al 7%. Segnala appunto, come vi confermo, di nervosismo. I titoli che stanno andando meglio oggi a Milano: Azimut, Ubibanca, Luxottica, Lottomatica, guadagni di circa 3,5 punti per i primi due istituti finanziari, mentre tra i titoli che perdono di più la Popolare di Milano meno 13%, si sta chiudendo l'aumento di capitale, Fondiaria meno 5 dopo che Standard & Poor's ha emesso un verdetto sul rating molto negativo. I titoli sono praticamente a livello spazzatura, pertanto questo oggi è il verdetto del mercato. Però c'è nervosismo, Piera, per ora certo. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ora andiamo alle altre notizie. Naturalmente torneremo ad aprire la pagina politica non appena vedremo comparire Monti al Quirinale, non appena sarà concluso il colloquio con Napolitano. Andiamo dunque nel frattempo alle altre notizie. Ripartiamo dalle nuove perquisizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. L'inchiesta della Procura di Milano sulla bancarotta da 1,5 miliardi di euro dell'ospedale San Raffaele è al punto di svolta. Don Luigi Verzè, il 91enne prete manager fondatore dell'istituto, è stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre 4 persone, tra cui i costruttori Pierino e Giovanni Luca Zammarchi, padre e figlio, titolari di società che per la struttura sanitaria hanno realizzato lavori in appalto da decine di milioni di euro. Ieri sera i due sono stati interrogati a lungo dai PM titolari dell'inchiesta. I loro verbali sono stati secretati. Contemporaneamente è stato fermato per concorso in bancarotta il faccendiere Piero Daccò, 55 anni, una sorta di uomo ombra della sanità milanese che secondo l'accusa avrebbe gestito i fondi neri della Fondazione San Raffaele Monte Tabor. Il fermo, motivato con il pericolo di fuga, secondo alcune intercettazioni l'intermediario era in procinto di trasferirsi all'estero, deve essere ancora convalidato dal GIP che lo sentirà domani o dopodomani. E questa mattina una ventina di perquisizioni anche nella sede dello stesso San Raffaele sono state compiute dalla Guardia di Finanza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora è il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Incassi da record superiori anche del 600% rispetto alla media. Li hanno registrati gli esercizi commerciali della Regione Veneto in un normale giorno di ottobre. Cos'è accaduto? Merito di un'improvvisa euforia verso lo shopping dei veneti? No. Solo merito dei controlli. Gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate hanno infatti monitorato per un giorno intero gli esercizi commerciali di diverse città e i risultati sono stati eclatanti. Nella maggior parte dei controlli sono emersi incrementi di incassi superiori al 30%. Emblematico il caso di un parrucchiere di Rovigo, il quale, grazie alla presenza degli agenti, ha fatto registrare un incasso di circa 6 volte superiore alla media giornaliera dichiarata al fisco. Avrà fatto più shampoo e permanenti del solito o avrà registrato con più solerzia agli incassi? E pensare che proprio un comune del Veneto, San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, è risultato, secondo una ricerca del Sole 24 Ore, il più fedele al fisco. Andiamo bene. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ad ottobre, secondo l'Istat, il carrello della spesa, ovvero il raggruppamento dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, dal cibo ai carburanti, registra su base annua un aumento del 4,1%. Si tratta dell'aumento maggiore dall'ottobre del 2008. E sempre ad ottobre il mercato dell'auto in Europa torna giù segnando un calo dell'1,4%, lo ha comunicato la CEA, l'associazione che raduna le case costruttrici europee. Fiat Group ha immatricolato in Europa 68.630 nuove vetture, segnando un calo del 10,2%. Il futuro incerto della protesta degli indignati sgomberati a New York e non solo. Allontanati ieri da Zuccotti Park, campo base di Occupy Wall Street, i manifestanti non si sono dati per vinti, nonostante sia stato respinto il loro ricorso contro lo sgombero. Nella notte, infatti, in centinaia sono tornati nel parco in cui un giudice della Corte Suprema di New York ha stabilito che è lecito protestare, ma non accamparsi. Cosa faranno nelle prossime ore? Si vedrà. I loro colleghi di Oakland, California, ad esempio, sono già stati sgomberati 2 volte, ma sono sempre tornati, armati di tende e generatori. Per ora, comunque, festeggiano il sindaco di New York, Bloomberg, e i commercianti della zona. Per il movimento, sceso in campo 2 mesi fa, sono ore difficili. Un campo di indignati è stato smantellato ieri sera a Parigi e le autorità londinesi fanno sapere di attendere solo il via libera del tribunale per fare lo stesso. Ed è finita anche la breve avventura dell'occupazione dell'ex cinema arcobaleno di Bologna, dove si erano riuniti gli indignati italiani sotto la sigla Draghi Ribelli. La polizia li ha allontanati stamattina. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca italiana, 10 anni ed è di origine peruviana la bambina che intorno alle 7.45 di questa mattina è stata colpita alla testa da un pezzo di cornicione che si è staccato dal tetto di un palazzo. La bambina è ora ricoverata in ospedale. Un cuore artificiale di nuova generazione controllabile via internet che permette di monitorare in tempo reale e a distanza le condizioni del paziente. È stato impiantato per la prima volta in Italia all'Humanitas di Rozzano, provincia di Milano, da una squadra diretta da Ettore Vitali, responsabile del Dipartimento Cardiovascolare. Il paziente, un signore di Novara di 65 anni, sta bene ed è già tornato a casa. strepitose azzurre della pallavolo. Stamattina la nona vittoria consecutiva ai mondiali in corso in Giappone, battuta la Germania. In diretta con noi il nostro Dario Ricci. Sì, buongiorno. Inarrestabile l'Ital Volley in rosa della pallavolo femminile. Le azzurre conquistano contro la Germania nella World Cup che si sta disputando in Giappone la nona vittoria consecutiva. Questa volta è un 3-2 ottenuto appunto con un 15-13 al tie break, che sa anche di rivincita, visto che le tedesche, tra l'altro allenate dall'italiano Guidetti, avevano battuto le azzurre proprio nella semifinale dell'ultimo europeo a settembre. Stavolta invece lo bianco e compagni si sono presi la rivincita che vuole dire anche via libera verso le Olimpiadi di Londra 2012, perché con questo successo la qualificazione, il passo olimpico è automatico. Ora però rimane da conquistare, non è certo obiettivo da poco, la World Cup, di cui tra l'altro le azzurre sono detentrici avendo vinto il titolo nel 2007. Per vincere la World Cup servono 4 punti nelle ultime due sfide, domani contro i temibili Stati Uniti e poi venerdì la sfida più facile contro il Kenya. Staremo a vedere azzurre lanciatissime a questo punto, anche il trofeo dopo il passo olimpico è a portata di mano. Grazie al nostro Dario Ricci. E una buffata di spot pubblicitari alla Notte dei Publivori al Teatro Arcimboldi di Milano la sera di venerdì. A un popolo di fan assatanati in tutto il mondo. Escono di casa la sera tardi, si infilano in un cinema o in un teatro e ne escono all'alba dopo aver guardato centinaia di spot. Se chiedete a un publivoro chi è Bob, lo sa. Se gli fate cantare il jingle di Super Timor non si fa problemi, anche se si tratta di pubblicità africane dei primi anni 80. Ma sono i tormentoni che vengono riproposti ogni anno e di edizioni la Notte dei Publivori ne conta tantissime. L'evento e il conseguente costituirsi della Cineteca degli Spot Internazionali nasce in Francia nel 1980 per volontà di Jean-Marie Boursicot, che da ragazzo collezionava quei pezzetti di pellicola che gli operatori delle sale cinematografiche gettavano via, le réclame. La maratona degli spot pubblicitari internazionali più originali questa volta sarà dedicata ai buoni e cattivi della pubblicità. Appuntamento venerdì e sabato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occhi puntati sul Quirinale. A breve Mario Monti scioglierà la riserva e presenterà la lista dei ministri. È da qui che ripartiamo e lo facciamo collegandoci appunto con il Quirinale, con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, l'attesa continua a dilungarsi. Proprio così, Piera, una procedura, come abbiamo già detto, anomala, è 2 ore e un quarto che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sta ricevendo il Premier incaricato Mario Monti. Evidentemente ci sono gli ultimi ritocchi da fare alla lista dei ministri, il giuramento era previsto per le 15, ma a questo punto non sappiamo cosa succederà. Certo. E se tutto slitterà. Indubbiamente questo è molto strano, cioè questo colloquio lunghissimo, era molto tempo che non si vedeva, anzi io personalmente da 15 anni faccio giornalista politica, non l'ho mai visto. Piera, a te studio. Aspettiamo. Elisabetta, sì, torneremo naturalmente a collegarci non appena vedremo comparire Mario Monti. E sono qui, qui accanto a me c'è Simone Spezia. Simone, sì, dicevamo che sono in attesa da un paio d'ore e mezza io, sì, in realtà, come gli ascoltatori avranno sentito. Come tutti gli italiani, insomma, ci sono molti nodi da sciogliere, no? Sì, nodi da sciogliere essenzialmente, come insomma in parte abbiamo raccontato anche nel corso dei giornali radio, sono essenzialmente e naturalmente i nodi politici, sono quelli che riguardano questo veto incrociato che c'è stato tra il Partito Democratico e il Popolo della Libertà sui nomi di Gianni Letta e Giuliano Amato. Insomma, il professor Monti non ha fatto mistero e anzi lo ha detto pubblicamente che avrebbe voluto dei politici all'interno della compagine di governo, perché questo naturalmente può dare delle maggiori garanzie di tenuta e anche di contatto con le parti politiche che dovranno sostenere questo esecutivo tecnico, non ha ricevuto propriamente un niet, ma appunto una serie di veti incrociati, per cui il Partito Democratico ha di fatto detto no a Gianni Letta, in parte per motivi suoi, in parte perché l'Italia dei Valori ha detto chiaramente che non è disposta a sostenere sostenere un esecutivo all'interno del quale ci sia Gianni Letta, e il Popolo della Libertà ha detto che non è di contro, ha risposto che non è disposto a sostenere un esecutivo all'interno del quale ci sia Giuliano Amato. Una vicenda che si è giocata sotto traccia nel corso di tutto nel corso di tutta la giornata. Credo che più o meno ci stiamo avvicinando, tra un attimo dovrebbe arrivare tra l'altro il Presidente del Consiglio incaricato a fornire la lista dei ministri, che è proseguita non solo nel corso di tutta la giornata di ieri con una serie di vertici tra i partiti politici, ma durante la nottata c'è stato un ultimo vertice notturno, tra l'altro anche questo lunghissimo, ancor più dell'incontro che sta avendo in queste ore il professor Monti con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con il segretario del PDL, del Popolo della Libertà, Angelino Alfano. È un incontro che è iniziato in tarda serata e che è finito, o almeno così l'hanno battuto le agenzie, intorno all'una e tre quarti. Ecco Simone, vogliamo quindi intanto... sul tavolo, sì esatto, sul tavolo, stavo dicendo, rimangono sostanzialmente solamente i nomi dei tecnici. Ecco, facciamone qualcuno, ricordiamo cui, quali sono i nomi. Il primo di tutti naturalmente è Mario Monti, nel senso che sarà lui, oltre ad essere Presidente del Consiglio, secondo le indiscrezioni che sono circolate e che naturalmente finora non sono state smentite, sarà anche il Ministro dell'Economia, però supportato da figure forti come Vice Ministri, probabilmente quattro, di sicuro quello che ha battuto ieri l'agenzia di stampa Radio Corrieri, e che ce ne saranno due, ci saranno Guido Tabellini e Vittorio Grilli, che è l'attuale direttore generale del Tesoro, che, come ricorderanno tra l'altro gli ascoltatori, è stato in gioco per diventare governatore della Banca d'Italia, sostenuto da Giulio Tremonti. Solo tecnici, si diceva, tra questi le ultime indiscrezioni, però anche qua siamo nell'ambito delle pure ipotesi, perché poi i nomi si sono rincorsi da questo punto di vista, danno in risalita per i beni culturali Andrea Riccardi, che è un romano ordinario di storia contemporanea all'Università di Roma 3, ai beni culturali al posto di Salvatore Settis, che era il nome che era emerso inizialmente. Per il Ministero degli Interni, andiamo sui ministeri di peso, Anna Maria Cancellieri, che è stato commissario al Comune di Bologna e che è un prefetto, alla giustizia Paola Severino, che nel 2002 era quasi impredicato di diventare vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ed è un avvocato penalista, agli esteri andrebbe, questo sempre secondo le indiscrezioni, insomma sono circolati anche qua parecchi nomi, però tra cui quello di Giuliano Amato. Vediamo i corazzieri che si stanno nel frattempo schierando accanto alla porta dalla quale dovrebbe uscire il Presidente del Consiglio incaricato. Dovremmo esserci, sono finalmente pronti con le macchine fotografiche, molti guardano l'orologio, insomma sono lì bloccati da 2 ore e un quarto, un po' come te Simone. Sostanzialmente. Si apre la porta finalmente quasi dovremmo esserci. Chiudiamo con il presunto Ministro degli Esteri, ma tra un attimo lo sapremo. Si richiude la porta, sì, questo il giochetto va avanti da qualche tempo, tra l'altro con ingressi ed entrate di personale, naturalmente, quindi non siamo stati là in ballo a pensare che uscisse Monti da un momento all'altro. Comunque della lista tra questi c'è Giancarlo Aragona, che andrebbe al Ministero degli Esteri, e tra l'altro il posto di Ministro degli Esteri era proprio quello che era stato pensato per Giuliano Amato. È stato tra l'altro Giancarlo Aragona giusto ieri nominato presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, è naturalmente stato in diplomazia, è un un ambasciatore naturalmente per il welfare. Sì, volevo prima di andare passare al welfare, Elsa Fornero, no? Il nome sì. che si fa, volevo andare per un istante a Strasburgo con Antonio Pollio Salimbeni, perché questo esecutivo è stato fortemente voluto dall'Europa, quello che sta per nascere, un esecutivo nato proprio per portare a compimento le promesse fatte dall'Europa, un'Europa che stamattina è tornata comunque a lanciare l'allarme. Antonio? Sì, buongiorno a voi. Ecco, l'esecutivo non c'è ancora. Stamattina ci sono state però le dichiarazioni di Olli Rehn e di Barroso. Sì, dichiarazione di Barroso e del Presidente dell'Unione Europea Van Rompuy. In effetti non ci sono state cose, non ci sono state affermazioni, messaggi particolari all'Italia, la Commissione Europea, l'Eurozona e i governi dell'Eurozona aspettano di capire quali saranno, dando per scontato che ci sarà un nuovo governo Monti, aspettano di capire quali saranno. Ti devo interrompere Antonio, ti devo interrompere, ci colleghiamo con il Quirinale, sentiamo. Ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il senatore professor Mario Monti, il quale, sciogliendo la riserva formulata il 13 novembre, ha accettato di formare il nuovo governo. Il presidente Monti verrà ora a leggere la lista dei ministri. Il giuramento dei componenti del nuovo governo avrà luogo oggi alle ore 17 al Palazzo del Quirinale nel Salone delle Feste. Grazie. Ecco, dunque ci siamo. Mario Monti sta per leggere la lista dei ministri, con questa breve dichiarazione quindi è stato annunciato, i corazzieri sono lì pronti. Sì, abbiamo anche un aggiornamento sull'orario, come già ci diceva la nostra Elisabetta Fiorito, giustamente diceva ci aspettavamo che il giuramento fosse alle 15, a questo punto non lo sappiamo, in realtà adesso sappiamo che il giuramento sarà slitta alle 17, forse nell'attesa di Monti, perché vedo le porte chiuse, possiamo ricollegarci con Antonio Pollio Salimbeni o... Pollio nel frattempo probabilmente ci ha lasciati, invece siamo in collegamento con Elisabetta Fiorito. Elisabetta? Ecco, si aprono le porte, come vedete ci sono i corazzieri e quindi sta uscendo Mario Monti che in questo momento farà una breve dichiarazione, cioè una lunga dichiarazione, la lista dei ministri. Sentiamo quello che deve dirci adesso. Grazie. Il premier. Grazie Elisabetta. Incaricato. Ecco, si sta preparando Mario Monti. Buongiorno. Vi leggo la lista dei membri del governo. Presidente del Consiglio ed elenco dei ministri. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia e delle Finanze, senatore professor Mario Monti. Ministri senza portafoglio. Avvocato Enzo Moavero Milanesi, dottor Piero Gnudi, dottor Fabrizio Barca, professor Piero Giarda, professor Andrea Riccardi, ministri con portafoglio, affari esteri, ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, interno, dottoressa Anna Maria Cancellieri, giustizia, professor avvocato Paola Severino. Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola. Sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, dottor Corrado Passera. Politiche agricole e forestali, dottor Mario Catania. Ambiente, dottor Corrado Clini. Lavoro e politiche sociali con delega per le pari opportunità, professoressa Elsa Fornero. Salute, professor Renato Balduzzi. Istruzione, università e ricerca, professor Francesco Profumo. Beni e attività culturali, professor Lorenzo Ornaghi. Alla prima riunione del Consiglio dei Ministri proporrò la nomina del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, professor Antonio Catricalà, a Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri. Mi riservo altresì di proporre al Consiglio dei Ministri le seguenti deleghe per i ministri senza portafoglio. Affari europei, avvocato Enzo Moavero Milanesi. Turismo e sport, dottor Piero Gnudi. Coesione territoriale, dottor Fabrizio Barca. Rapporti con il Parlamento, professor Piero Giarda. Cooperazione internazionale e integrazione, professor Andrea Riccardi. Desidero farvi notare l'affidamento ad una sola persona del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, salvo la successiva designazione di viceministri, così come avverrà per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'affidamento ad una sola persona del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti corrisponde ad una logica che desidero molto sottolineare nell'attività di governo, che è quella di mettere più al centro le iniziative coordinate per la crescita economica, per lo sviluppo. Mi permetto anche di fare presente che, come avrete notato, sono affidati a personalità femminili ministeri di grande rilievo: il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega per le pari opportunità. Desidero ringraziare le forze politiche e le forze sociali per la collaborazione che ho avuto in occasione delle consultazioni che voi stessi avete seguito da un altro punto della città di Roma, Palazzo Giustiniani. Desidero rivolgere un cordiale saluto al Presidente del Consiglio uscente, onorevole dottor Silvio Berlusconi, con rispetto e attenzione per l'opera da lui compiuta. Infine, un particolare sentito ringraziamento al Capo dello Stato per l'onore che mi ha fatto chiamandomi a questo incarico e per il sostegno che da lui in ogni istante ho avuto. Grazie. Scusi. Graziani e Agenzia Italia, non ci sono ministri politici in questo governo. Pensa che l'esecutivo sia sufficientemente blindato per arrivare al 2013? Credo che la blindatura di un governo dipenda dalla sua capacità di agire incisivamente e di spiegare ai cittadini, e in primo luogo naturalmente al Parlamento, il significato e la portata della sua azione. Questa è la blindatura che cercherò con i miei ministri, e le forze politiche hanno manifestato una chiara preferenza, uscendo da una fase, spero che stiano uscendo da una fase di dialettica molto molto vivace tra di esse, per sostenere questo governo senza farne parte con loro esponenti. Sono arrivato alla conclusione nel corso delle consultazioni che la non presenza di personalità politiche nel governo agevolerà piuttosto che ostacolare un solido radicamento del governo nel Parlamento e nelle forze politiche, perché toglierà un motivo di imbarazzo, e d'altra parte la stessa nascita di un governo per tanti aspetti innovativo come tipologia riflette la grande convinzione nelle forze politiche che si tratti di un momento straordinario sia per le difficoltà dell'economia e della società italiane, sia per le difficoltà esasperate finora nei rapporti tra le forze politiche, e spero che governando bene e seriamente con il loro apporto io e il mio governo possiamo anche dare un contributo al rasserenamento e alla coesione tra le forze politiche. Rimetterete mano alla riforma delle pensioni? Avremo l'occasione di presentare il programma del governo alle due Camere, a cominciare domani dal Senato della Repubblica, e quella sarà l'occasione più appropriata per, anche da parte vostra, per prendere una prima visione sulle linee programmatiche del governo. Io le chiedo, Angela Bianchi, TG Parlamento, se ci sarà o meno la patrimoniale e in che modo? Ma se vuole lei può chiederlo. Presidente Lorenzo Totoro, Bloomberg News. Lei ha detto ieri l'altro che dai mercati, guarda i mercati osservandone l'impazienza temperata con razionalità, se cito esattamente, spero di sì. Che cosa si aspetta ora dai mercati? Comprenderanno la portata innovativa del nuovo governo? Si adegueranno di conseguenza? Questa è la speranza, e ovviamente abbiamo operato in tempi brevi e con serietà di procedura e con molta attenzione alla qualità delle scelte, e ci sentiamo quindi sicuri di ciò che abbiamo fatto. E abbiamo anche ottenuto molti segnali di incoraggiamento dai nostri partners europei e in genere dal mondo internazionale. Tutto questo confido si tradurrà anche, peraltro in una fase che è complessivamente complicata dei mercati, in un rasserenamento di quella parte della difficoltà dei mercati specificamente concernente il nostro paese. Stiamo ascoltando le parole di Mario Monti, che ha sciolto la riserva, ha presentato la lista dei ministri, continuiamo ad ascoltarlo insieme. È stato interessante e abbastanza impegnativo arrivare a questa formazione del governo, le assicuro che non prendo in considerazione a questo stadio passaggi in corsa, perché di corsa si tratterà. Posso chiedere un'ultima cosa? Due domande rapidissime. La ragione per cui questa mattina è andata così per le lunghe la formazione della lista dei ministri, ce lo chiedevamo tutti qua. E la seconda, se il ruolo di Corrado Passera in vicende infrastrutture di primo piano come trasporti, come Alitalia e NTV, non è stato considerato un parametro, diciamo, di inopportunità politica per nominare un ruolo in cui dovrà occuparsi di quegli stessi settori? Il tempo che è stato necessario per compilare la lista dei ministri è soprattutto stato un tempo per il convincimento mio e poi per la mia esposizione al Capo dello Stato, che le ha condivise, delle considerazioni circa una determinata struttura, per esempio in questo momento l'opportunità che la competenza sul Ministero dell'Economia e delle Finanze appartenga al Presidente del Consiglio dei Ministri, per esempio ciò che ho già messo in luce a proposito del rafforzamento del cuore dell'economia reale con una più attenta e coesa opera di politica economica in quel settore. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, il nuovo Ministro per lo sviluppo economico e per le infrastrutture e trasporti ha una lunga storia manageriale che include esperienze nel mondo industriale, dei servizi e da ultimo nel mondo bancario, e ho considerato la sua storia come una importante premessa e promessa di una sua attività proficua. Senza che vi siano nelle sue nuove funzioni possibili intralci legati alla sua attività passata. Grazie. Ecco, abbiamo ascoltato le parole di Mario Monti, ha illustrato la lista dei nuovi ministri. Siamo ancora in compagnia con Stefano Folli del Sole 24 Ore. Stefano, grazie per essere ancora qui con noi. Eccoci. Allora, abbiamo sentito il nodo centrale: non ci sono politici in questo esecutivo. Mario Monti ha detto, sì, questo toglierà motivi di imbarazzo e agevolerà l'azione del governo. Ci credi? Ha detto quello che era giusto che dicesse in questa fase il governo. Secondo me evidentemente la mancanza di un ponte politico con il Parlamento non è, diciamo, di per sé un fattore di forza, però è logico che il Presidente del Consiglio valorizzi quello che invece è l'aspetto dominante di questa formazione, cioè la qualità tecnica e il sostegno del Capo dello Stato, ma anche, diciamo, il sostegno che è stato garantito dalle forze politiche. Quindi la risposta che Monti ha dato era inevitabile ed è anche corretta in questo momento. Ecco, un esecutivo, tre donne, cinque ministri senza portafoglio, che impressione ne hai ricevuto? La formazione mi sembra interessante, le personalità mi sembrano tutte di alto profilo, quindi non si può dire assolutamente nulla sotto questo punto di vista. Monti ha illustrato molto bene lo spirito di questo governo e ciò che si intende fare. Naturalmente il punto cruciale riguarda se i partiti in Parlamento lo sosterranno con l'impegno che hanno promesso, e questo naturalmente dipenderà dal tipo di programma che Monti andrà a esporre e dalle cose che verranno fatte, non tanto forse nei primissimi tempi, quando ci sono delle priorità imposte dall'Europa che si devono affrontare, e tutti sanno che nessuno come Monti, con la sua competenza, è in grado di affrontarle e con la sua credibilità presso i nostri partner. I problemi cominceranno nella fase successiva, quando bisogna andare un po' più nel merito di alcune riforme di lunga prospettiva, che indubbiamente tenderanno a dividere le forze politiche. Stefano, Simone Spezia, per una domanda che riguarda proprio la questione dei partiti e della formazione di questo nuovo governo, non pensi che alla fine si sia venuti ad un assestamento con due personaggi come Antonio Catricalà, che è considerato abbastanza vicino a Gianni Letta, e Piero Giarda, che pur essendo un tecnico anche lui è stato comunque un senatore del Partito Democratico? Sì, non c'è dubbio. Rispetto alle prime ipotesi di cui si è discusso dell'ultimo ore, quelle che portavano i nomi di Giuliano Amato e di Gianni Letta, questo dà l'impressione che ci sia un equilibrio che è stato in qualche modo discusso anche con gli esponenti della politica, e che effettivamente è come dici, è un equilibrio che comunque è meno appariscente agli occhi, diciamo, del grande pubblico, ma forse anche alcuni degli altri nomi che sono stati fatti alla testa di quei ministeri probabilmente sono stati, come dire, discussi e sono emersi da questi contatti che ci sono stati a lungo, sono stati stanotte e sono stati stamattina. La stessa lunghezza del colloquio tra Napolitano e Monti dimostra che c'erano alcuni tasselli andavano sistemati, quindi indubbiamente c'è stato un confronto piuttosto serrato con le forze politiche e alla fine si è trovato questo punto di equilibrio, che era evidentemente l'unico possibile in questo momento. È nato il governo Monti, presentato poco fa la lista con i nomi dei nuovi ministri, fra poco li rileggeremo insieme. Prima però sentiamo se ci sono reazioni dai mercati. Deborah Rosciani. La reazione c'era stata, perché Milano ha avuto questa mattina un atteggiamento piuttosto altalenante. È partita male la giornata di Piazza Affari con un calo di mezzo punto, poi Milano è arrivata a guadagnare 2,5 punti, poi ha bruciato tutto contestualmente in ritardo con la presentazione della lista dei ministri che comporranno appunto il nuovo esecutivo l'esecutivo Monti, e poi è stato recuperato di nuovo appunto tutto quanto il terreno. C'è stata contestualmente alla presentazione del nuovo esecutivo una puntata in territorio positivo da parte del Fuzzi MIB, ma adesso si ricede di nuovo terreno, meno 0,35% sul principale paniere di Piazza Affari. Scendono pesantemente un paio di titoli del comparto bancario ed assicurativo, la Popolare di Milano e Fondiaria, per vicende non certo legate alla formazione del nuovo governo. Monitorerei cosa succede su Intesa San Paolo, meno 0,49%, il titolo saluta così il passaggio dell'amministratore delegato Corrado Passera al governo Monti. I migliori titoli Azimut e Ubibanca, questi titoli stanno già andando bene da questa mattina, indipendentemente dalle attese di governo, per cui è una giornata che è un po' concentrata su singoli temi a Milano. Per quello che riguarda il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, già questa mattina lo spread, che era partito bene sotto i 500 punti base, ha recuperato questa soglia, è arrivato a 530 e adesso è a circa 524 il rendimento del titolo decennale italiano, che era ritornato sotto la soglia del 7%, adesso gravita intorno a questa percentuale. Chiamiamola così, un'accoglienza un po' fredda per il nuovo esecutivo, almeno questo decreta il mercato in questo momento. Certo, saremo a vedere poi nelle prossime ore. Grazie a Deborah Rosciani, e noi invece torniamo a collegarci con Elisabetta Fiorito, perché le abbiamo ascoltati insieme i nomi dei nuovi ministri presentati poco fa da Mario Monti, ma vogliamo naturalmente ripercorrere la lista. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, abbiamo anche ascoltato il Presidente del Consiglio che ci diceva che non entreranno politici, bisogna correre e la corsa non sarà facile. Allora, questa è la lista dei nuovi ministri: Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo e delle Infrastrutture, Giampaolo Di Paolo, Ministro della Difesa, Anna Maria Cancellieri, Ministro dell'Interno, Paola Severino, Ministro della Giustizia, Giulio Terzi, Ministro degli Esteri, Elsa Fornero, Ministro del Welfare con delega alle pari opportunità, Francesco Profumo, Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Ornaghi, Ministro per i Beni Culturali, Renato Balduzzi, Ministro per la Salute, Mario Catania, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Corrado Clini, Ministro dell'Ambiente. Monti mantiene la delega all'Economia e alle Finanze e ha anche nominato 5 ministri senza portafoglio, che vuol dire senza ministero: Enzo Moavero, Milanesi Affari Europei, Piero Gnudi, Turismo e Sport, Fabrizio Barca, Coesione Territoriale, Piero Giarda, Rapporti con il Parlamento, Andrea Riccardi, Cooperazione Internazionale. E poi al prossimo Consiglio dei Ministri, il primo Consiglio dei Ministri dell'era Monti, ci sarà la nomina di Antonio Catricalà, attuale Presidente dell'Antitrust, a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Piera. Grazie Elisabetta Fiorito. Ricordiamo alle 17 il giuramento dei nuovi ministri. E noi abbiamo al telefono Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buongiorno. Buongiorno. Ci aspettavamo, insomma, ci eravamo organizzati per sentirci un pochino prima, poi le cose sono andate un po' per le lunghe al Quirinale. Allora, un primo commento a questa lista di ministri. Con Stefano Folli abbiamo fatto il punto più politico poco fa, ragionando sul fatto che è vero che non ci sono politici, ma è vero che forse in minima parte Catricalà e Giarda possono fungere da figure di garanzia per le due parti. Al di là di questo, che idea ti sei fatto da questa... Confermata l'idea di un governo strutturalmente molto snello e con una forte concentrazione, diciamo, nei punti nevralgici che dobbiamo affrontare. Il primo è quello del ruolo del Presidente del Consiglio e insieme il Ministro dell'Economia, e quindi i due incarichi che sono ovviamente nelle mani del professor Monti. Il secondo, il ruolo altrettanto che mi sembra che spicchi, diciamo, nella compagine governativa, è quello del, ormai si può dire, ex capo azienda di Banca Intesa, Corrado Passera, che, diciamo, prende le redini sia del Ministero dello Sviluppo, con delega anche alle comunicazioni, come sappiamo, e sia soprattutto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E quindi, come ha detto tra l'altro in modo molto trasparente Monti, si tratta, possiamo chiamarlo un po' il Ministero per la Crescita. Quindi questi mi sembrano i fatti salienti, di questo governo. Non dimenticherei nemmeno il ruolo anche, il nuovo ministro del welfare, un economista torinese, cioè Elsa Fornero, che diciamo tra l'altro il Sole 24 Ore conosce molto bene perché è editorialista anche per il nostro gruppo, e quindi su questo pure è diciamo un punto di novità importante. E tra l'altro Elsa Fornero, che tra l'altro abbiamo sentito anche spesso a questi microfoni proprio per questi motivi. Guido, dell'altra questione, tanto se ne è parlato nei giorni scorsi, i giovani e le donne. Allora, di giovani mica tanti oggettivamente, però per la prima volta in Italia a delle donne vengono dati dei ministeri di forte peso, insomma sono i ministeri principali in realtà, perché sono interni, giustizia e welfare, lo ha sottolineato lo stesso Monti, fatto salvo quello dell'economia che appunto lo tiene il Presidente del Consiglio. Anche questo è un segnale importante. Sui giovani diciamo il segnale diciamo è meno intenso di quello che viene dato per le donne, dove credo che sia diciamo un record assoluto, no? Quindi vedere nella posizione di ministeri importanti, come dicevi tu, quello dell'interno, della giustizia e del welfare, tre donne, tre grandi autorevoli diciamo professionisti diciamo nel loro campo. Quindi da questo punto di vista credo che abbia risposto alle aspettative in modo diciamo ampio e perfetto. Ecco, io volevo chiedere invece, da quell'appello del Sole 24 Ore, fate presto, è passato qualche giorno, questo sarà un esecutivo in grado di fare presto? Beh, questo è un esecutivo che nasce per fare presto, e ovviamente fare presto è bene, perché diciamo voi stesso avete dato il ritmo tambureggiante quest'oggi della situazione diciamo sui mercati, sia sui mercati di borsa che per quanto riguarda diciamo lo spread dei nostri titoli. Quindi questo è un governo che nasce per fare presto e bene, e per tirarci fuori da un'emergenza drammatica nel quadro tra l'altro di un'Europa che sta vivendo una crisi senza precedenti. Quindi credo che diciamo è passato meno di una settimana dal giorno di quell'appello, credo che presto si sia fatto, magari ecco poteva diciamo poteva forse entrare in funzione ieri, voglio dire, ecco, ma insomma credo che insomma ci possa dire che sia stato raccolto. È stato fatto un piccolo capolavoro da questo punto di vista, anche perché non è stato facile nelle ultime ore mettere a punto diciamo comporre diciamo il puzzle di questa squadra di governo, che ancorché snella sapevamo diciamo che era in pista il possibile ingresso, ne avete già parlato, di politici diciamo in questo governo, cosa che non è avvenuta. Insomma, non è stato un passaggio facile, perché le trattative ci sono state per tutta la notte. Fatto presto, adesso Guido tocca fare bene. Esatto, appunto, abbiamo fatto presto, adesso bisogna fare bene, non carichiamo né di eccessive diciamo aspettative diciamo tutte caricandole nei prossimi giorni, come diciamo che possiamo fare la rivoluzione in tre giorni. Dobbiamo fare bene, dobbiamo rispondere ai mercati con un programma, domani tra l'altro ne prenderemo conoscenza quando il Presidente del Consiglio Monti si presenterà al Senato, quindi con un programma secondo me che deve essere il più snello possibile, rispecchiando esattamente la composizione del governo, chiaro, e il più possibile con dei provvedimenti concreti da fare ancora una volta nel più breve tempo possibile. Grazie a Guido Gentili. Si conclude qui questo speciale, questo lungo speciale che abbiamo dedicato alle parole di Monti, alla formazione del nuovo governo. Abbiamo sentito quali sono i nomi dei nuovi ministri. Vi lascio a GR24. Un saluto da Maria Piera Ceci e da Simone Spezia.